No. No sé qué, pero a volta sua. Però ancora mi do di arrivare a questo argomento, volevo dire, se avete capito bene la storia della canzoncina della Vöhler, avete capito bene di che si tratta, no? Cioè questa canzoncina di Scherno, Souvent la chaleur de Beaujour, questa canzoncina di Scherno in cui la ragazza finisce a sedere scoperto. Ed è la beffa della vita, perché nel momento in cui vengono detti questi versetti, lei ride, cioè come se, questo non era stato messo in evidenza, mi sembra, come se Emma capisse attraverso questa canzoncina, questa filastrocca, capisse il senso della sua esistenza e sghignazza lei stessa su questo senso. Tanto si era data da fare per trovare l'amore della vita e tutto è finito con una cui la gonna va su per un colpo di vento. Anche la prima parte della canzoncina, quindi è la beffa appunto che ti accoglie alla fine della vita, ma anche la prima parte è interessante, Souvent la chaleur de Beaujour ferait des fillettes à l'amour, cioè per entrare nel regno dell'amore basta non nulla, basta una luce, basta, come dice Flaubert, il calore di una bella giornata. E la ragazzina, la Fiette, ed è interessante che dica la Fiette tra le altre cose, perché le donne vengono in qualche modo tutte viste in una semplicità infantile, tutte reagiscono allo stesso modo, da quando hanno 12 anni a quando ne hanno 70, sta per dire, naturalmente. Cioè tutte, gli basta un non nulla per entrare nel mondo dell'amore. Ecco, questa era la precisazione che volevo fare. Venendo poi a questo che vi ho segnalato come uno dei punti più alti della Bovary, abbiamo retto quest'anno con questa cosa. Venendo poi a questo punto, volevo sottoporvi questo brano che abbiamo letto ancora, che è davvero meraviglioso, e dice dei Marezzi. Sapete cos'è la stoffa marezzata? È una stoffa che ha dei riflessi, l'avete vista molte volte, anche abbastanza volgaruccia se vogliamo, o usata, che ne so, per feste, per dare maggiore evidenza evidentemente alla persona, no? Avete presente? Allora, dice così, dei riflessi letteralmente rabbrividivano, qui mettiamo guizzano, dei riflessi guizzavano sull'abito di seta bianco con un chiaro di luna, M scompariva di sotto. A lui sembrava che scaldendosi fuori da sé si perdesse confusamente nelle cose circostanti, nel silenzio, nella notte, nel vento che passava, nei sentori umidi che salivano. Questo è un punto meraviglioso in cui il realismo famoso mostra un realismo consiste, come sapete, nel descrivere le cose come sono, senza l'intervento dell'autore, eccetera. Ma mostra un suo trascolorare il realismo nell'allucinazione e nella fantasia. Effettivamente, tutti coloro che hanno perseguito poi la strada del realismo si sono trovati spesso a scoprire, come dire, l'insufficienza della descrizione reale, perché il reale diventava oggetto di una allucinazione. Tutto questo lo vediamo in un allievo di Flaubert, del grande scrittore Maupassant, il quale, osservando degli oggetti nella seconda parte in particolare della sua produzione, molto intensamente, molto fissamente, vede che questi oggetti si allargano, si confondono i confini stessi degli oggetti, insomma, no? Diventano spettrali, di cui abbiamo il corpo di Emma, direi l'emblema dell'oggettualità, è il corpo di un cadavere, che però, fissato intensamente con gli occhi dello strazio, in questa atmosfera notturna, diventa esso stesso, e questa è una cosa abbastanza singolare, una fonte di luce. Così come in un quadro ci sono a volte degli oggetti che diventano fonti di luce del quadro stesso. Se in un quadro tu metti per esempio una donna vestita di bianco, quel bianco può diventare una fonte di luce per il quadro. E qui questo abito bianco di lei, di seta, l'abito museale, diventa appunto una fonte di luce. Ma questa fonte di luce si collega in qualche modo con l'atmosfera notturna in cui il corpo, e qui è l'allucinazione, in cui il corpo della morta, il cadavere, tende a disfarsi, cioè Emma viene ad appartenere al mondo intorno, che è fatto di vento, che è fatto di odori, di vento, di odori, di silenzio, naturalmente. Questo disfarsi nel mondo esterno è una mirabile dimostrazione del modo con cui Flaubert guarda la vita, nel segno della sensualità, della carnalità. Guardate, qui c'è appunto qualcosa che tocca il senso del tatto, e il vento che ti viene intorno, che tocca l'olfatto, ci sono sentori profumati, no? È come se Emma rientrasse nella vita da cui è venuta. Questo è l'aspetto più interessante di questa descrizione. E poi dopo naturalmente ci sono dei ricordi. Direi che l'unico necessario difetto che qui dice Flaubert, che lui, Charles, ricorda tante scene quando lei è sulla panchina, contro la siepe, nel cortile dei Bertone, cioè della tua casa paterna, il riso dei ragazzi, il profumo dei capelli. In realtà queste varie immagini non possono altro che avvenire, darsi nel tempo, non possono avvenire tutti insieme. Naturalmente lui è costretto a metterle tutte insieme, perché non può creare degli spazi. Ma stavo pensando che una scrittura evidentemente è impossibile. Se Flaubert fosse stato uno scrittore, che so, surrealista, immaginiamo, cioè quanto di più lontano da lui si possa immaginare. Questi vari ricordi avrebbe dovuto metterli sulla pagina intervallati da spazi, capite? Perché non possono venire tutti insieme. È impossibile, non vengono a catena tutti i ricordi. Ricordava, disse ancora, il filo lontano se la plie, tutte le felicità scomparse, già parlavamo della parola felicità, ses attitudes, ses gestes, le temple de sa voix. Ecco qui ancora una riflessione che volevo fare. I suoi atteggiamenti, quello che ci manca in una persona quando la persona è morta, sono proprio gli atteggiamenti. Atteggiamenti di cui noi non siamo consapevoli, no? Di modo, per esempio, questa ragazza qui davanti si è arrabbiata in questo momento i capelli, ed è un gesto molto banale, perché tutte voi abbiate i capelli, se avete poco poco i capelli lunghi, questi sono questi capelli a crocchio, quindi non sarei la fine, evidentemente, in questo momento. Ma tutti abbiamo degli atteggiamenti, no? Per esempio, questa ragazza qui che vedete, vi ricordate che un giorno l'ho presa in giro per come stava vicina, no? pessima cosa, perché ci si rovina così la vista. Io quando ero bambino non avevo rovinato del genere molto vicino, però questa è una cosa che le appartiene. Quando noi pensiamo ai nostri familiari, ai nostri amici, ma bisogna avere una notevole intimità con la persona per capire queste cose, vediamo che la persona è un insieme di atteggiamenti, no? Pensate a chi vuol fare la fotografia di una persona. Queste fotografie sono, nella stragrande maggioranza dei casi, fotografie esperte di fotografi di Italia, italiani, brutte. Se avete mai fatto caso, quando voi vedete sulle riviste delle fotografie di attori, fanno tutte, quasi tutte, diciamo, uno che ha molto praticato la fotografia una volta, fanno tutte schifo. Perché? Perché sono tutte finte, sono tutte costruite. C'era un grande fotografo, non ricordo bene come si chiamava in inglese, che diceva: per fotografare una persona bisogna viverci insieme. Finché tu capisci, starci un po' insieme, capisci quali sono i suoi gesti, i suoi atteggiamenti ricorrenti, le impressioni della sua voce, i suoi tic nervosi, allora puoi fare una fotografia. Quindi questi atteggiamenti, questi gesti sono proprio parte integrante dell'oggetto d'amore. Quando noi lo ricordiamo, ne sentiamo profondamente incantarsi la punta del naso, ma sono infiniti, e chi li conosce? Li conosce chi ti è stato molto vicino, ma non un fratello o una sorella, cioè non una persona che ha dovuto stare vicino per motivi effettivi, perché stavate nella stessa famiglia, ma chi ha voluto studiarti, chi è stato indotto a studiarti, appunto un amante, no? Il modo di svegliarsi. Vi ricordate per esempio l'atteggiamento di Emma in una pagina bellissima, e quando si svegliava al mattino vicino al marito, vi ricordate? Se lo ricorda lei? No, dovreste poi avere più presente. Chi è che si ricorda di quando si svegliava al mattino e lui la guardava? Sì, esattamente, ecco. E queste cose, questi ricordi di questi gesti, sono fondamentali per capire per l'appunto la persona. Atteggiamenti, gesti e poi, last but not least, il timbro della sua voce. Quando una persona è morta, quando una persona non c'è più, potremmo anche dire quando una persona ci ha lasciato, la cosa più terribile è che noi dimentichiamo la voce. Lì per lì no, passa del tempo no, poi il no diventa un mi, e poi ci rendiamo conto che abbiamo come una pallida memoria della voce della persona, ma la voce non c'è più. Allora subentra quella che insomma si chiama la voce mentale, ma non è più la voce degli orecchi. Vi dirò di più: se in queste occasioni, quando la persona, parliamo di persona amata, cioè che ci interessa, morta, se n'è andata, noi trovassimo un nastro sul quale fosse registrata la voce di questa persona, avremmo paura nel risentirla. Avremmo paura di sentirla. A me personalmente capitò una cosa di questo genere: presi il nastro, era notte, andai di sotto alla cassetta, al cassonetto della spazzatura, e buttai via questo nastro in cui era rimasta una voce che non potevo più sentire. Vediamo ancora se c'è qualcosa. Ecco, questa era l'ultima cosa che volevo dire. Lui ebbe una curiosità terribile, quella curiosità che già l'aveva spinto a scostare le cortine del letto a baldacchino, lentamente con la punta delle dita, palpitando, alzò il velo ma emise un grido d'orrore che svegliò gli altri. Guardate, si tace completamente, l'ellissi, non si dice nulla di quello che Charles vede. Si dice e c'è una parte che riguarda la sepoltura, di cui però non ci sono particolari commenti, riguardo alla quale non sono commenti particolari da fare, e voi andando avanti dopo il capitolo 10, una pagina, due pagine, tre. Ecco, proprio verso la fine del capitolo 10, prima che cominci il capitolo 11, troverete il capoverso Charles et sa mère, Transfert le soir. Questo è il capitoletto 48 che ha come titolo Charles e sua madre. Ci siamo? Allora, Charles e sua madre restarono la sera, malgrado la loro stanchezza, molto tempo a conversare insieme. Ci siamo? C'è qualcuno che non ce l'ha? No. Sì. Allora, state tranquilli. Charles e sua madre restarono la sera, malgrado la stanchezza, molto tempo a conversare assieme. Parlarono dei giorni di un tempo e dell'avvenire. Lei sarebbe venuta ad abitare a Yonville, avrebbe tenuto la casa, non si sarebbero lasciati più. Lei fu ingegnosa e carezzevole, rallegrandosi dentro di sé a riafferrare un affetto, a resesire, a riacciuffare un affetto che da tanti anni le sfuggiva. Suonò mezzanotte. Il villaggio, come di solito, era silenzioso. E Charles, svegliato, pensava sempre a lei. Rodolphe, che per distrarsi aveva battuto i boschi tutta la giornata, dormiva tranquillamente nel suo castello. E io laggiù anche lui dormiva. Noi abbiamo visto, vi ricordate, la madre di Charles. Abbiamo avuto una bella, profonda descrizione, vi ricordate all'inizio. Aveva dato un'educazione al figlio, aveva cercato di dare, molto diversa da quella che aveva dato suo padre. Piena di carezze, di marmellate, vi ricordate, quando il padre invece voleva abituare il figlio allo stoicismo, quindi lo faceva andare nudo per i campi, insegnava a imprecare contro le processioni. Diceva che nella vita studiare non occorre. E la cosa importante era cavarsela. La fortuna ti avrebbe aiutato. Questa fu la ragione per cui Charles ebbe all'inizio un'educazione estremamente approssimativa, che poi impartiva un prete, vi ricordate, e poi fu mandato in collegio, ma a 12 anni, e noi l'abbiamo per l'appunto incontrato quando andava a scuola, ormai 15 anni. Cercato di contrastare il padre, poi si era resa conto che era inutile, come molte mogli che si rendono conto a un certo momento che le battaglie che fanno contro il marito sono completamente perse, e allora smettono di brontolare, non sentendosi amati si chiudono nel silenzio. Il silenzio è una grandissima arma di protesta. Tutti voi in famiglia, se avete dei motivi a volte di protestare contro i genitori, o se avete dei motivi di protestare contro il vostro partner, la vostra partner, voi sapete molto bene che cos'è il silenzio. C'è una bellissima citazione che mi sta venendo in mente in questo momento, di un grande tragico greco, che era Eschilo, che diceva: il racconto è dolore, ma anche il silenzio e dolore. La madre di Charles smette di protestare, chiudere il suo silenzio e poi avviene il matrimonio. È lei stessa a pensare al matrimonio del figlio, vi ricordate, di quella vecchia, cioè a 45 anni, ma era ridotta vecchia. E poi non l'abbiamo più vista nel corso del romanzo. Ma pensiamo che cosa succede quando una madre e un figlio si sposano. O la figlia, ma più il figlio. Allora, in quei tempi, il figlio si sposa anche adesso, anzi, ma c'è un giovane. Un figlio si sposa e se ne va. Dovete sapere, perché anche voi sarete genitori, me lo auguro per voi, insomma, fanno il mondo. Il signore qui presente è padre o no? Non è padre. Che i genitori sono divisi tra il volere che la figlia si sposi o si collochi, insomma adesso poi oggi il matrimonio non c'è più, insomma, fortunatamente, poco, insomma, ma comunque che trovi una sistemazione. Perché se alle donne sui 30 anni comincia a sentendosi sole comincia a rodervi, questo è il punto. E come vi ho raccontato più volte, insomma, tra i 30 e i 40 una donna che resta sola, insomma, è una disperazione, insomma, obiettivamente. Anche l'uomo, ma non a quell'età, più avanti. Da una parte i genitori vogliono che la figlia se ne vada via di casa, eccetera. Dall'altra parte temono moltissimo tutto questo. Perché il figlio è una parte di loro, il figlio che se ne va lascia una stanza vuota. Figlio che se ne va lascia una tristezza terribile in casa. E quindi i genitori hanno poi un rapporto nei confronti rispettivamente del genero e della nuora, un rapporto doppio. Da una parte sono grati a qualcuno che si è accollato del figlio, dall'altra parte sono invidiosi, questo capita specialmente alle donne, alle mamme, no? Guardando come la nuora non tiene bene la casa, non fa bene cucina, eccetera, eccetera. Quando capita un avvenimento come questo, il figlio rimane vedovo. Sto pensando in questo momento che lui è rimasto due volte vedovo. La madre cerca di riappropriarsi del figlio. Siccome l'amore non è mai un fatto spassionato nella vita, ma è sempre un fatto interessato, anche nei casi estremi, perché io amo una bella donna, perché ci sto bene con lei, lei ha letto assieme, e viceversa. Perché un figlio ama la madre o ama il padre? Ma per motivi molto semplici, perché gli danno la protezione necessaria per vivere, non solo economica, ma proprio una protezione esistenziale. Allora i genitori cercano di riaccapararsi il figlio per amore del figlio, indubbiamente, ma per amore di se stessi, perché dovete sapere che tutti i genitori pensano sì, ma finché io mio marito, finché ho mia moglie, c'è qualcuno che va da me, se mi ammalo c'è qualcuno che va da me, ma dopo dove vado? Vado a finire all'ospizio? La vita umana è molto semplice. Questa è una cosa che mi piacerebbe che scrivesse a capo del letto. La vita umana, contrariamente a quello che mi pensa, è molto semplice. Ti hanno offeso da bambino e tu cercherai di farla pagare a qualcuno. Ci sono delle leggi di compenso nella nostra vita psichica estremamente semplici. Allora, i genitori hanno ceduto il figlio a un'altra persona. Adesso che il figlio non ha più nessuno vicino a sé, gli dicono guarda che vengo io a tenerti la casa. Ma qual è il tornaconto? Il tornaconto è che se io mi ammalo tu ti occupi di me. Ma quando un figlio si è andato di casa, questo ritornare dai genitori innamorati. È come se la madre di Charles potesse intessere un colloquio affettivo che dopo che si era sposato era stato impossibile avere con lui. Perché quando un figlio si sposa, quando un figlio si sposa o comunque va a vivere con un'altra persona, un figlio o una figlia, non è più tuo. Tutti sapete, anzi non lo sapete perché siete ancora molto giovani, che quando poi uno va a vivere per conto suo, il rapporto con i genitori diventa qualcosa di anche voluto, ma soprattutto doveroso, per cui c'è la telefonata una volta al giorno, due volte al giorno, diventa una rottura di palle sostanzialmente, no? E i genitori tutti ti chiedono, ma come, ma è tanto tempo che non ti vedo, è tanto tempo che non ti vedo, ma come, ti ho visto la settimana scorsa, ma no, mi sembra molto più tempo. La madre quindi cerca in ogni modo di conquistarsi un nuovo affetto del figlio. Parlano di due cose, essendo insieme. Parlano dei giorni di un tempo. E già, perché i genitori e i figli hanno questo in comune. Hanno in comune i giorni in cui il bambino, il ragazzo, la ragazza, è cresciuto. E poi parlando dell'avvenire, è opportuno ricordare che la morte di una persona significa sempre un problema economico, un problema logistico, un problema economico. Se muore, almeno nelle famiglie tradizionali, se muore l'uomo, il capo famiglia, una volta si usava a dire, manca una fonte di reddito fondamentale in casa. E se l'uomo rimane, gli uomini adesso sono un po' insomma tutto fare, gli uomini nuovi o perlomeno dovrebbero esserlo, insomma, sanno gestirsi da solo, ma gli uomini di un tempo non sapevano fare assolutamente niente in casa. Quindi il patto è questo, io ti aiuto, tu ti occupi di me, quindi pensano all'avvenire. Lei sarebbe venuta ad abitare a Yonville, avrebbe tenuto la casa, non si sarebbero lasciati più. Questa espressione, non si sarebbero lasciati più, è un'espressione che si usa fra fidanzati, fra innamorati. Secondo voi chi la dice questa espressione dei due? Lei è lei che la dice. Non c'è nessun figlio che direbbe alla madre non ci lasceremo più. Ma tutte le madri dicono al figlio non ci lasceremo più. È chiaro il concetto, eh? Guardate la meraviglia di questi due aggettivi, perché il grande scrittore si rivela con queste cose qua. Lei fu ingegnosa, cioè non poteva dire che qualcuno ha perso proprio la mente. Non si poteva dire al figlio, Charles, vengo ad abitare da te. D'ora in poi non è più tua moglie, ci sarò io. Detto così, senza diplomazia la cosa sarebbe andata male. E allora gliela mette bene sostanzialmente, capite il concetto, gliela mette bene. E gli dice, io posso venire qua e ti tengo la casa, e così staremo sempre insieme, a brividire insomma, naturalmente, staremo sempre, nessuno vuol stare. Altra applicazione, perché nessuno vuol stare con la propria madre o il proprio padre anziano? Perché sente in qualche modo una tutela da cui si era tolto e che si ripresenta? Non solo per questo. Per un'altra ragione cruda e indicibile. Perché non è bello stare con un vecchio. Perché i vecchi non sono belli, molto semplice. Sì, per un'ipotesi assurda. La figlia, il figlio a cui la madre fa questa offerta, vedesse nella madre, ipotesi come vedete, assurda, assurdo, fosse più giovane di lui, il discorso cambierebbe. Ma i vecchi sono brutti e fanno paura. Perché fanno paura? Perché poi si ammalano, perché poi diventano parte di loro. La madre fu ingegnosa e carezzevole, ecco i due aggettivi che volevo farvi vedere. Ingegnosa e carezzevole. Si allegrava interiormente di riafferrare un affetto, aveva perduto, che da molti anni gli sfuggiva. Suonò mezzanotte. Vi ricordo sempre che Flaubert racconta attraverso le due categorie kantiane di spazio e tempo. Ci fa sentire il tempo che passa, l'abbiamo visto già in molte occasioni, e ci fa sentire i luoghi in cui ci troviamo. Il tempo che passa. Chi è che si ricorda un'altra ora durante... Che ora era? Le sei, esattamente. Le sei per quanto riguarda il colloquio d'amore dei due. Ma quando Leon parlava, se non ricordo male, quando Leon parlava con lei, erano le otto di sera poi a un certo momento. E sei, siccome la pesante era cominciata cinque ore prima, ti dà l'idea. Sono le sei, era cominciata cinque ore, insomma. Serve a darti l'idea del tempo passato. Converso insieme sono le otto. Cerchiamo di capire cosa vuol dire le otto di sera, che cosa significa. Hanno cominciato nel pomeriggio, sono le otto. Se lei sta con un amico, amica a parlare, poi guarda l'orologio, dice sono le otto, cosa significa? Bravissimo. Le otto, sentite queste sottigliezze, le otto è l'ora di cena. Bisogna interrompere la conversazione, no? E adesso se vi dico, i due, le Charles e la mamma, stavano parlando, suona mezzanotte, che vuol dire lei, cosa vuol dire? È ora di andare a letto. Vedete come sono importanti queste finezze? Perché se avesse detto Flaubert, mettiamo che i due avessero cominciato a parlare alle sei, era un po' di tempo dalle 6 alle 10, ma se avesse detto suonarono le 10, non avevi la sensazione della conversazione lunga, suonò mezzanotte, hai l'idea che la conversazione è stata lunga. Suonò mezzanotte e aspettate che ho perso il villaggio come di solito. Oh, volevo dirvi questo a proposito di village, che noi troviamo sempre in francese, no? Noi lo traduciamo come villaggio, ma non è così, Cioè il villaggio per noi italiani è un raggruppamento di case piccolo, ma che un villaggio non è così, è quasi una cittadina. In Francia village indica ha un'estensione più ampia il termine, per cui il village può essere anche dove si trovano appunto i ombilli. Noi diciamo al posto di villaggio, è importante perché se no poi si fanno le prove delle traduzioni, noi diciamo in genere il paese. Il paese. Ora prendiamo, ecco, vediamo che i ombilli non è così, Vediamo che i ombilli. Lei conosce un posto più vicino, forse non lo conosce. Ma io le faccio, glielo dico pensando che lo conosca, ma lo conosce sicuramente. Qui vicino, non molto lontano di qui, c'è un posto che si chiama Frascati. Non lo conosco. Si vuole un porto, ma potrebbe essere una proposta indecente. Frascati, in francese, lo chiamereste village. Ma se tu dici a un frascatano che sta in un villaggio, questo è un cazzo, capito? Frascati è un paese, diciamo così, è un villaggio. Charles pensava sempre a lei. Quello che capita dopo che una persona cara è morta sono due cose, che uno pensa sempre a lei e che se può agli inizi vuol parlare di lei, quindi deve trovare qualcuno con cui parlare di lei. Guardate il punto capo e guardate la contrapposizione. Rodolfo, che per distrarsi aveva corso i boschi tutto il giorno. Che uomo è Rodolfo? Vedete questi piccoli dettagli. Di che cosa si occupa? Lo dire lei? Di cosa si occupa Rodolfo? La sua attività, che cosa fa Rodolfo? È un signorotto, ricco. A parte andare a donne, si occupa dei campi, della caccia, no? Ma sostanzialmente vive del suo, voglio dire. Quindi per distrarsi si era andato a caccia. Per distrarsi da che? Dal fatto che ha saputo che Emma è morta? Che ne pensate? No. Allora cerchiamo di approfondire la pregnanza di questo verbo. Cosa vuol dire per distrarsi? Quando voi vedete qualcuno attoncoli così eccetera che dicono faccio questo per distrarmi, uno si chiede ma da che cazzo devono distrarsi se non fanno niente? E ci pensate? Eppure lo trovate spesso questo concetto del voler distrarsi, ma perché a volte è inconsistenza, è il nulla. Chi è il nulla non può star su niente, deve distrarsi. E quindi, essendo giovane, essendo forte, virile, eccetera, eccetera, è andato a caccia tutto il giorno. Guardate la contrapposizione. Leon stava nel suo castello. Leon dormiva. Di Leon si dice solo che dormiva. Perché Leon non è uno che ha bisogno di distrarsi. Leon è sostanzialmente uno molle, addormentato. La contrapposizione tra i due caratteri è molto significativa, ne abbiamo parlato in più occasioni, ma vorrei che ancora ci pensaste. Rodolfo è rozzo, volgare, un seduttore, grana grossa, egoista, abbastanza ricco. Leon è un giovanottino efebico, un giovanottino che non ha alcuna magnanimità, che non ama nessuno, ama l'amore per così dire. Ama l'amore. Vi ricordate la differenza degli interessi romantici, letterari di Leon ed Emma? Emma che cosa amava? La prosa. La prosa che gli eccita. Lui invece la poesia. È stata fatta un'osservazione che è comunque interessante, anche se io per vari motivi non sono d'accordo. La vedrete nel vostro libro che porterete, quello di Agosti, se non sbaglio. Ci sono queste tre figure, Rodolfo, Emma e Leon. A un certo momento, come va a finire tra Rodolfo ed Emma? Chi è che scarica chi? Rodolfo scarica. Ma vi ricordate che nel caso di Leon, invece lei si è stufata di Leon perché è molle. Non dimenticate che Emma definisce Leon molle come una donna, a dimostrazione del fatto che non c'è nemmeno ombra di femminismo, per così dire, ad litteram in lei, no? Dice Agosti, l'autore del libro che porterete, fa questa osservazione. Quando Rodolfo vuol scaricare Emma, dice fra sé con ira, ma come farò a sbarazzarmene? Quando Emma vuol scaricare Leon, dice, ma come farò a sbarazzarmene? femminile nei confronti di Rodolphe, è maschile nei confronti di Leon. Andiamoci qui, ci vediamo.